Spero che ti possa tagliare con un foglio mentre firmi per la casa nuova, e che la penna si rompe, si sporchi il vestito, che ti toglie un altro ogni sera. E spero che sia l'uomo perfetto, ma non noti se ti tagli i capelli e confonde il tuo compleanno con quello di sua madre. Vorrei che almeno un giorno a settimana la tua busta arrivi tardi. Vorrei che nella pioggia una tonnella schizzi la tua gonna corta, che passavo più tempo con le mani perse lascio tu, piuttosto che al volante di un'auto nera, la mia auto nera. Buona, buona sfortuna, buona, buona sfortuna, come te non c'è nessuna, e per fortuna, amore buon viaggio e buona sfortuna. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Spero che le cose non si mettano bene, ci sia nebbia il giorno della tua festa, e il cane di Virginia abbaia ogni sera, ma solo quando guardo un film, e tutte le tue amiche facciano l'amore nelle notti in cui non sai dormire, i resti della spesa siano tutti di rame. Vorrei non ti facessero mai male le gambe quando torni dal lavoro, avessi una fitta al ginocchio mentre ti pieghi per fare l'amore. Vorrei non ti riuscisse il colore nuovo dei capelli, ti facesse incazzare senza uscire per due giorni di casa. Buona, buona sfortuna, buona, buona sfortuna, come te non c'è nessuna, e per fortuna, amore buon viaggio e buona sfortuna. La la la, nessuna, e per fortuna, fai pure buon viaggio, che poi ti raggiungo, ma forse mi perdo, e buona sfortuna. Na na na, na na na, na na na na na na.